Luca, ci sei? Luca! Luca, mi senti? Brecco, brecco, là! Sto fermando qui ai pilastri, ai due pilastri c'è un bellissimo gruppo di cavalli, li aspettiamo qui. Hola! Cazzo! Hola, Gianni Maria, ci sei? Siete gli ultimi? Non ti sento! Gli addorratosi! Avanti, avanti! Tocca! Giomari! Giomari! Giomari! A do you! Giomari! Ciao Lupo, buonasera, bene! E allora, dove sei? Sì, ho stato in campagna per mia figlia. Ah, ecco perché arrivavi così. Che? Sento che fu triste. Sì, aspetti, sto pensando. Adesso mi senti? Più forte, sì. È perché ero dentro la macchina prima, adesso sono fuori. Me ne sono sceso dalla macchina, capito? Ah, a morire da un gaglio dalla macchina ieri. Giorni! Carlo, la macchina, cazzo, cos'è? Ma che cammina a posto, ha sbagliato troppo. Bobo. Ah, che gufo ha mangiato? Sì, suia. Cazzo, un obbediente, sì. È un obbediente, sì che... Carregato chi d'astro, uia. Bebe. Gufo! Ehi, mi senti? Ma che è lo che ti sento? Fagno. Ehi, è Gianni Maria, mi senti? Non lo so se ti sente, ma non credo, Gian Marino lo sente a Graziano. Dovrebbe sentire comunque. Io lo sento. Lui già ti sente, Gian Marino. Tu? Mi senti? Luca? Gian Marino. Oh, non ti sento più adesso, Non mi senti? Peppa! Luca! Scatta il pesce! Ti sta chiamando Graziano, ma deve essere non lo senti. No, lo sento. Boh, non lo so, c'è perché. Lui ha detto che ti sente. Grazie, avanti. Graziano, c'è frequenza. Eia. Adesso non ti sento nemmeno io, Già, c'è Graziano, ma tu non lo senti. Ah, ecco, non lo sento. Beh, evidentemente zona buiosa per me da Graziano, va. Grazie. Si vuole comprare quel birichino che ti ho mandato dalla foto adesso ed si è innamorato di quello. Lo vado a le foto le ho mandato. Allora già sono arrivate. Già sono te le ho mandate le foto. A tratti adesso ti sento lui. Ho detto già te le ho mandate le foto. Aspetta che mi sposto, strano, prima ti sentivo perfettamente, adesso arriviamo a tratti. E adesso ti arrivo, Graziano, e bello, Luca. Guarda se mi senti adesso. Cameri. Ma non mi senti? Ma mi senti adesso? Adesso mi sento forte e chiaro. Ho fatto una cosa qui. Aspetta, ti mando la foto. Io bene, ti sto arrivando. Ehi, aspetta un attimino e ti faccio la foto, aspetta, Parla adesso, Giomarino. Ok, vedo un po' adesso, dai. Adesso mi sono spostato anch'io, adesso ti sento perfettamente. Sono con Gommino mio, fuori dalla macchina. Ehi, arrivi bene adesso. Vedo bene. Niente, sono comportabile. Già vanno, questo qua va. Allora Graziano non mi sente, così è lui. Graziano lo sente Gio Maria? Deve essere mangiando l'udozia, non può farvi da. Ah così è. Dite che si picchia un po' di bozzo. Avrà venuto di torre una volta. Attento, gufo, mangiando la storta stai. Oh, te l'ho mangiato, te l'ho mandata una foto, anzi una registrazione, te l'ho mandata lui, è arrivata a te. No. Controlla che ti è arrivata, ah, dai. No, la grotta ti per me qua, sai che ti ha detto? No, non c'ho niente. Oh, allora aspetta che sto ridendo la macchina e ti lo rimando, dai. Evidentemente non sono riuscito a mandartela, dai. Aspetta che te la mando, dai. Ehi. E bello, è arrivata a te. No, niente. Chissà chi la stai mandando. È finito adesso, infatti, l'hai filmato. E la foto che ti ho mandato io, è arrivata a te, vista l'hai? Già l'ho vista. Che tipo di apparecchio è? Qua non si può dire. Bello comunque, dai, già è bello. In presenza sembra bello. Se vale la pena. Ha già due sono stati ordinati. E allora ci sentiamo, va. E per cui se vale la pena ve lo dici. Guardati la foto, c'è scritto tutto quello che la descrizione c'è. Vabbè, certo. Lui, là ci vediamo, non è che. Già me lo guardo comunque. C'è scritto tutto? Nella foto c'è scritto, guardatela, leggitela lì, nella foto stessa. Dove? Ave senti! Sì, che ti sento! Sì, che ti sento! Sì, da qua già ti sento, da vicino al cancello. Vedo un po', ti stavo chiamando. Adesso già ti sento bello chiaro pure. Perché poco fa ero nella veranda, adesso me ne sto andando e sto andando a sedermi in macchina. Ecco, arrivata a te quella foto? Non ci ho guardato, dopo guardo. Sì, d'accordo, allora ci sentiamo magari da casa, dai. A chi va devo fare i punti e poi vado a casa. Vabbè, ci sentiamo, noi dobbiamo cenare anche qua, capito? Per cui è troppo cosa, la partita è un peccato, così che rimaniamo fino a cena, capito? No, io no, me ne sto salendo adesso, passare i punti, accompagniamo il migliore e poi a casa. Ok, vabbè, d'accordo, comunque, va bene, dai, già ti sento bene comunque adesso. Ok, a dopo, ciao. Ciao, vai Lu. Ciao, grazie, a dopo, ciao. Ciao Luca, che a te? Guardate, c'è Luca. Eppa! Ilu! Cattolo pesce, è arrivata a te. No, non l'hai mandata a me probabilmente. Ma insomma, A me non mi è arrivato niente di te. Aspetta, adesso te la rimando di nuovo, sullo scatto, dai. Riprova, sarei più fortunato. Luca, Peppa, Lu, dimmi, e alla leare, Luca, ma non ti sento adesso, come vai? Come non mi senti, ma scherzi, vuol dire che ti stai spostando tu, dimmi, Luca. Chi è? Avanti! Chi è? Chiamami, mi senti? Sento, grazie. Sono arrivata adesso, avami il vostro la doccia. Dove sei? A Ottava. Già lo so che sei lì. Ci arrivi bene, ma il portatile stai usando. Stai arrivando bene, dai, benissimo, bello, chiaro, pulito e forte. Vanno bene, ce l'ho sul tavolo un po' di fianco per prenderti sì, bene. Avanti. Perché se lo metto dritto sento QRM. Eia. E ricambiati, ne scendi dalla doccia, va. Tutta abbronzata, se fare una ragosta, tutta ruglia. E chi ci viaggio di tu? Ha ripigliato la campagna pa un centro rilassante, tutti in bikini e la faccia soli, la sdraio. A culo all'aria. Tu ne hai fondo di culo. Chi vera, una carreola. A dopo. No, grazie. Ciao Bacchi, mi posso la doccia, la buio dentro, là. Che ero in campagna e sto salendo adesso. Salendo adesso, mi sono in garage adesso. In garage, ci sentiamo poi, grazie. Saluta Gian Maria se sei ancora. Ciao, a dopo. Ehi, in campagna dalla figlia. In garage sono Gian Maria, dentro il garage, posteggiato. Sto arrivando alla campagna adesso. Va bene, ci sentiamo più tardi, dai, che chiudo qua e vado a casa. Ciao Gian Maria, ciao Graziano, a dopo. Io ti sento bene, abbastanza bene, mi sei a casa qua. Ti ho sentito, ti ho detto, mi sembri a casa qua. Dopo Gian Maria, dopo.